le zone colpite da terremoto e un catastrofe. Fino ad oggi alcune zone le strade sono interrotte, gli aiuti sono difficili per farli arrivare. Lo Stato sta provando con elicotteri per portare, insomma, no, l'acqua e il necessario, insomma, no, bambini che per i sopravvissuti. La situazione è molto molto delicata. Noi stamattina siamo per partire per la carovana per andare a una zona colpita. Abbiamo raccolto i fondi, stiamo partendo. Marocchini del mondo pure stanno facendo le collette per partire a fare il nostro parte responsabile in questa situazione. Tanti consapevolezza da parte di cittadini marocchini per primo passo donare sangue, la raccolta di pane, latte per i bambini, gente sotto le macerie. Puoi immaginare uno qui, sua madre, suo padre sotto le macerie. Di solito si fa, quando muore uno, si fa l'avanco, si lava il corpo, si fa le cose rituale. Ora i corpi sta venendo puzza di corpi, insomma, no, la situazione è molto delicata. Noi come associazione Sopra i Ponti, come cooperativa qui della diaspora Amici Senza Frontiere, stiamo lanciando un appello agli aiuti, insomma, no, per poter, insomma, no, parte la carovana oggi, domani andremo in altri posti. Quindi c'è una presa di posizione, insomma, no, molto, sia anche da parte di Marocchini del Mondo, stiamo coordinando per far fronte a questa situazione. È chiaro che anche c'è bisogno di tutto, zone che sono ancora non agibili, stiamo facendo di tutto per poter, insomma, no, arrivare, insomma, no, a piedi in certe zone. Stiamo provando anche di vedere un po' gli asini, usare gli asini, arrivare al posto dove è possibile arrivare con i mezzi, poi dopo continuiamo con gli asini. Insomma, siamo in una situazione molto molto drammatica. Sì, lo Stato sta facendo la sua, però non copre tutto. La gente è un po' quelle zone dell'Alto Atlante, molto, e anche la parte di Tarudante, c'è molto molto bisogno di intervento immediato da parte della cittadinanza. Ecco, abbiamo letto di un bilancio di più di 2100 morti, ma ci sono ancora persone sotto le macerie? Sì, ci sono tanti sotto le macerie, posti dove non arriva nessuno, la gente, insomma, i sopravvissuti vedono i loro cari sotto macerie, non possono fare nulla e stanno aspettando. Una situazione molto critica, insomma, no? Umanamente è dura, molto dura. Tu raccontavi appunto della solidarietà che arriva anche dall'Italia e anche dalla nostra città Bologna. Cosa possono fare anche cittadine e cittadini italiani per aiutare? Ma guarda, per il momento grazie anche perché il viaggio, il turismo responsabile che noi pratichiamo in questa terra come diaspora per lo sviluppo economico di un'economia sociale, siamo arrivati a 2000, quindi stiamo partendo, insomma, no, proprio dei viaggiatori che sono venuti qua, che hanno conosciuto il Marocco e stiamo andando grazie a questi sostegni, che è il sostegno nostro come cooperativa, a dare supporto. Se vuoi ti mando il PayPal, come il conto, dove sia un volontario, uno può contribuire 10 euro, cioè, ogni cosa è valida. La gente ha bisogno di coperte, la gente ha bisogno, penso che anche a livello di Bologna qualche associazione, adesso mi devono aggiornare oggi, che sta preparando due furgone per le coperte, visite per bambini, perché tutto sotto le macerie, insomma, non tutto, insomma, non la gente è in montagna, è il freddo, per chi vuole contribuire, partecipare a questa azione umanitaria.